Ma io l'ho detto, lo ridico, al Colle si sale qualunque sia il risultato. No, no, io intendevo anche allora questo. Credo che sicuramente il Presidente debba parlare col Presidente della Repubblica. Allora come oggi. Ho detto nessuno sottovaluta il voto di oggi, ma attenzione, capisco che non ci siano stati neanche scene di giubilo, perché l'opposizione sa che aveva il numero inferiore ai nostri voti, o comunque se avesse ritenuto di averne di più bastava accendere le lampadine bianche. Per il momento c'è il governo Berlusconi, lasciate che sia non un deputato o un ministro fuori dalla porta a fare ipotesi così, sono cose importanti. Sicuramente il voto di oggi non va sottovalutato, è un dato importante, e io poi i miei fondamentali in politica dicono sempre al primo posto che i governi devono avere il consenso degli elettori, il resto poi vedremo. Comunque la situazione lascia aperta ogni valutazione, ma i miei fondamentali mi hanno sempre insegnato quello.